Capitolo 4. Wanyan Gerry. Quando tornai a Nairobi, andai a trovare Wanyan Gerry all'ospedale indigeno. Con tante famiglie di squatters, alla fattoria, di rado non avevo qualche malato all'ospedale. Ero una habituée de la maison e in ottimi rapporti con gli infermieri e la direttrice. Mai ho conosciuto una donna che si mettesse uno strato così compatto di cipria e di rossetto sotto la cuffia bianca. Il suo viso largo sembrava il viso di una di quelle bambole russe chiamate Katinka, che si svitano e hanno dentro un'altra bambola e poi un'altra ancora. Come è d'obbligo, per una Katinka si mostrava sempre gentile e pronta. Il giovedì, giorno di pulizie, davano aria alle stanze. I letti dalle corsie venivano portati in un cortile aperto da cui si godeva una splendida vista con le aride pianure del Lati in primo piano e la montagna azzurrina di Donio Sabuk. E le lunghe colline Mua in lontananza. Vedere le mie vecchie donne Kikuyu a letto con le lenzuola bianche faceva uno strano effetto, come vedere a letto una vecchia mula stracca o un'altra paziente bestia da soma. Ne ridevano anche loro insieme a me, ma con stizza, proprio come delle mule, perché gli indigeni hanno paura degli ospedali. La prima volta trovai Wanyan Gerry tanto sconvolto e abbattuto da farmi pensare che per lui sarebbe stato meglio morire. Atterrito da ogni minima cosa, non fece che piangere, scongiurandomi di riportarlo alla fattoria, tremava e si agitava nelle bende. Ma quando tornai dopo una settimana, si era ripreso e mi accolse con calma e dignità. Fu felice di vedermi. Aveva atteso con impazienza il mio arrivo, disse l'infermiere, perché doveva raccontarmi con assoluta convinzione, soffiando le parole attraverso un tubo messogli in bocca, che era stato ucciso il giorno prima. E sarebbe stato ucciso una seconda volta di lì a qualche giorno. Il medico che lo curava era stato in guerra in Francia e aveva fatto molte plastiche facciali. Prese a cuore la sua sorte e fece miracoli. Sostituita la mascella con una striscia di metallo avvitata all'osso rimasto, ricucì i brandelli di pelle e gli rifece una specie di mento. Gli aveva tolto persino un pezzo di cute dalle spalle, mi disse Wanyan Gerry, per completare il suo lavoro di rammendo. Quando fu liberato dalla fasciatura, il viso del bambino non era più quello di una volta. Faceva impressione strana, come il muso di una lucertola. Era senza mento, ma poteva mangiare e parlare normalmente, benché dopo l'incidente restasse sempre un po' obleso. Per tutto questo ci vollero parecchi mesi. Quando andavo a trovarlo, Wanyan Gerry voleva sempre un po' di zucchero e io gliene portavo qualche cucchiaio in un cartoccio. Se non li paralizza e li agghiaccia il terrore dell'ignoto, gli indigeni all'ospedale non fanno che lagnarsi e brontolare, architettando piani di fuga, piani di cui fa parte anche la morte, perché di lei essi non hanno paura. I medici europei che hanno costruito gli ospedali e sono riusciti con non poca fatica a trascinarvi gli ammalati, lamentano amaramente che gli indigeni non conoscano la gratitudine, che accolgano tutto quanto con la stessa indifferenza. Per i bianchi questo lato dello spirito indigeno è irritante, è una mortificazione. È vero, gli indigeni accolgono tutto con la stessa indifferenza, si può fare ben poco per loro. E ciò che si fa svanisce e non se ne parla più, non ringraziano e non serbano rancore, e anche a volerlo non ci si può mutare nulla. È un tratto che sconcerta, sembra annullare la nostra esistenza individuale, costringerci a sostenere un ruolo che non si è scelto. Quasi fossimo un fenomeno della natura, la pioggia o il sereno. Sotto questo riguardo i somali non sono come gli indigeni. Per loro il modo in cui ci si comporta conta, e come, ed è difficile fare una mossa senza colpire e spesso ferire profondamente quei fieri ed appassionati pedanti del deserto. Hanno un vivo senso di gratitudine e sono capaci di serbare rancore per tutta la vita. Un favore, un'offesa o anche solo una dimenticanza si scolpiscono nel loro cuore come nel granito. Maomettani osservanti hanno, come i loro correligionari, un codice morale che è la base di ogni loro giudizio. Con loro si può creare o distruggere il proprio prestigio nel giro di un'ora. Quanto ai Masai, essi occupano un posto a parte fra le tribù indigene. Ricordano, sanno cosa vuole dire ringraziare e serbare rancore. Tutti loro provano rancore verso tutti noi, un rancore che si spegnerà quando si spegnerà la tribù. ma i Kikuyu, gli unici senza pregiudizi, Wakamba o Kavirondo, non hanno codici morali. Gli uomini per loro sono capaci di tutto e non c'è verso di impressionarli, anche a volerlo. E un Kikuyu corrotto e miserabile pare quello che reagisce in maniera diversa a seconda di come ci si comporta con lui. Lasciati al loro istinto e alla tradizione del loro popolo, i Kikuyu accettano le nostre opere come si accettano le opere della natura, non ci giudicano, ma nulla sfugge alla loro attenzione. Dall'insieme delle loro osservazioni dipende l'opinione in cui ci tengono, la buona o cattiva fama che ci siamo fatti. I poveri in Europa sono come i Kikuyu, non giudicano, ma tirano le somme. Se apprezzano o amano qualcuno, l'amano come si ama Dio. Non per quello che fa a loro, niente affatto, ma per quello che è. Un giorno, gironzolando per l'ospedale, vidi tre nuovi malati, un uomo nerissimo dal capo cresputo e due ragazzi, tutti e tre con la gola fasciata. Un infermiere gobbo, narratore nato, che si divertiva sempre a raccontarmi i casi più complicati del suo reparto, vedendomi fermare accanto al letto dei nuovi arrivati, venne subito a riferirmi la loro storia. Nubiani facevano parte della banda dei fucilieri africani del re, i soldati neri del Kenya. I ragazzi erano tamburini e l'uomo suonava il corno. Vittima di gravi sventure, l'uomo aveva perso la testa, cosa non rara fra gli indigeni. Prima si era messo a sparare all'impazzata sulle caserme, poi, svuotato ormai il deposito, aveva rivolto il fucile contro se stesso e contro i ragazzi. Nella sua capanna di lamiera ondulata, e aveva cercato di tagliare la gola a tutti e tre, se stesso compreso. Peccato che non li avessi visti quando li avevano condotti all'ospedale la settimana prima, disse l'infermiere. Tutti coperti di sangue, parevano già morti. Ora erano fuori pericolo e l'assassino aveva riacquistato il senno. I tre seguivano il racconto con profonda attenzione, interrompendo ogni tanto l'infermiere per correggerlo nei dettagli. I due ragazzi, che facevano gran fatica a parlare, si rivolgevano all'uomo nel lettino di mezzo perché desse la sua conferma, aiutandoli a illustrare l'episodio in tutta la sua drammaticità. Vero che avevi la schiuma alla bocca? Vero che urlavi? Gli chiedevano. Dicevi che ci avresti fatto a pezzi, grossi come cavallette, vero? Sì, rispondeva l'uomo con espressione afflitta. A volte per un appuntamento d'affari o per aspettare il treno che portava la posta dall'Europa ed era in ritardo, dovevo trascorrere a Nairobi una mezza giornata. In quei casi, se non avevo altri impegni, andavo a prendere qualche convalescente indigeno per condurlo a fare una gita in macchina. Nel periodo in cui era ricoverato Wanyangerry, il governatore, Sir Edward Northey, aveva due leoncini che doveva mandare allo zoo di Londra e che per il momento teneva in gabbia nel parco del Palazzo del Governo. Per i malati era una grande distrazione, tutti volevano venire con me a vederli. L'avevo promesso anche a quelli della banda Kar, ce li avrei condotti appena fossero stati in grado di uscire. Ma nessuno voleva venire senza gli altri due. Il suonatore di cornetta era il più lento a guarire, uno dei ragazzi era già stato dimesso dall'ospedale e lui ancora non poteva muoversi. Il ragazzo si recava all'ospedale ogni sera per avere sue notizie, non voleva perdere la gita. Lo trovai lì davanti un pomeriggio. Il suonatore disse, aveva ancora un terribile mal di capo, ma c'era da aspettarselo con tutti i demoni che aveva avuto nella testa. Finalmente vennero tutti e tre, rimasero assorti in profonda contemplazione davanti alla gabbia. Uno dei leoncini, irritato di vedersi fissare così a lungo, si drizzò di colpo, si protese lanciando un breve ruggito che impressionò i ragazzi e spinse il più piccolo a rifugiarsi dietro la schiena del suonatore di cornetta. Quel leone era cattivo come te, gli disse più tardi sulla via del ritorno. Alla fattoria, nel frattempo, la causa di Wanyangerry era rimasta in sospeso. I suoi venivano a volte a chiedere come stava, ma ad eccezione del fratellino piccolo pareva che avessero paura di andarlo a trovare. Anche Caninu ronzava sempre intorno a casa. Il pomeriggio tardi, come un vecchio tasso in ricognizione, per avere notizie del bambino. Io e Farah, a quattro occhi, facevamo a volte il calcolo delle sue sofferenze e delle pecore che ci sarebbero volute per pagarle. Circa 2 mesi dopo l'incidente, Farah venne ad annunciarmi una novità. In quelle occasioni arrivava sempre mentre stavo mangiando, si metteva impettito in fondo alla tavola, tutto compreso del compito di far luce sulla mia ignoranza. Per Parlava bene francese e inglese, ma con certe storpiature a cui restava ostinatamente fedele. Diceva, ad esempio, esatto invece di eccetto. Sono rientrate tutte le vacche esatto la grigia. E io, invece di correggerlo, parlando con lui, usavo le sue stesse espressioni. Malgrado l'espressione e l'atteggiamento dignitoso e sicuro, spesso principiava in modo vago. Mem Sahib, disse quella volta. Cabero. Ecco il tema d'oggi, mi dissi, e attesi il seguito. Riprese dopo una pausa. Mem Sahib, tu credi che Cabero sia morto, divorato dalle iene? Invece no, è con i Masai. Poco convinta, gli chiesi come faceva a saperlo. Oh, lo so, disse. Canino ha tante figlie sposate con Masai. Quando Cabero capì che nessuno l'avrebbe aiutato, esatto i Masai, si rifugiò presso il marito di una sorella. Ha passato dei brutti momenti, questo sì. È rimasto tutta la notte su un albero mentre le iene gli facevano la posta. Ora vive con i Masai. C'è un vecchio Masai molto ricco che non ha figliuoli e lo adotterebbe volentieri. Caninus sa tutto ed è stato parecchie volte alla riserva per discutere della cosa, ma a te non ha il coraggio di parlarne perché crede che se i bianchi vengono a saperlo, Cabero sarà impiccato a Nairobi. Farah parlava sempre dei Kikuyu con grande arroganza. Le donne Masai, disse, non hanno figli e sono ben contente se possono prendere un bambino Kikuyu. Ne rubano tanti. Ma Cabero, quando sarà grande, non vorrà vivere con i Masai, che vagano sempre da un posto all'altro. È una vita troppo faticosa per un Kikuyu. Noi della fattoria potevamo seguire di anno in anno il tragico destino della tribù Masai, che andava scomparendo sull'altra riva del fiume. Era come il guerriero che cessa di combattere, come il leone senza più artigli, un popolo evirato. Non avevano più lance, né i grandi scudi sgargianti, e nella riserva di caccia i leoni braccavano le loro mandrie. Una volta, alla fattoria, tre tori erano stati castrati e trasformati in pacifiche bestie da tiro. Quando li rinchiudemmo nel cortile la notte, le iene, fiutando l'odore del sangue, riuscirono a entrare nella stalla e li scannarono. Ecco il destino dei Masai, mi dicevo. Per la moglie di Canino, disse Farah, perdere il figlio per tanti anni è un dolore grosso. Io non mandai a chiamare Canino, perché non sapevo se credere o no a quello che aveva detto Farah, ma quando lo vidi di nuovo ronzare intorno alla casa, uscii per parlargli. Canino! Gli dissi, Cabero è vivo? È con i Masai? Mai si troverà un indigeno impreparato alle nostre mosse. Canino scoppiò immediatamente a piangere sulla sorte del figlio perduto. Lo ascoltai, osservandolo. Canino, ripetei, conduci qui Cabero, non lo impiccheranno. Potrà stare tranquillamente alla fattoria con la mamma. Ma Canino continuava a lagnarsi e non mi sentì. Afferrò solo quella disgraziata parola, impiccheranno. I suoi lamenti si fecero più abissali. Si sprofondò a descrivere che promessa era Cabero e come lui lo amava più di tutti gli altri figli. Canino stava in un villaggio vicino e aveva una sequela di figli e nipoti che ronzavano sempre nei paraggi della mia casa. Fra gli altri aveva un nipotino molto piccolo, Sirunga, figlio di una figlia sposata con un Masai e tornata poi nella casa paterna insieme al piccolo. A Sirunga il sangue misto aveva dato una strana vitalità, una tale selvatica ricchezza di invenzione e una tale mutabilità che non pareva una creatura umana, ma una fiammella, un uccello della notte, un piccolo genio della fattoria. Ma era epilettico e gli altri bambini ne avevano paura. Non volevano farlo giocare con loro e lo chiamavano Sheitani, demonio. Così l'avevo preso in casa con me. Siccome era malato, non poteva lavorare, ma adempiva perfettamente alla sua funzione di burlone, di buffone di corte. Mi seguiva dappertutto, piccola ombra nera e irrequieta. Canino sapeva del mio affetto per lui e fino a quel giorno ne aveva sempre sorriso, da bravo nonno. Ma ora ci si aggrappò, se ne servì contro di me per sfruttarlo come meglio poteva. Avrebbe preferito 10 volte lasciare Sirunga in pasto ai leopardi, esclamò con foga, piuttosto che perdere Cabero. Sì, ormai perduto Cabero poteva perdere anche Sirunga, non gliene importava, perché Cabero era la pupilla dei suoi occhi, il sangue del suo cuore. Se Cabero era morto davvero, il lamento del vecchio era il lamento di Davide sul figlio a Salonne. una tragedia che lo isolava nel suo grande dolore. Ma se era vivo e si nascondeva nella riserva Masai, quel lamento risuonava ancora più tragicamente, era una fuga o una battaglia, una lotta disperata per la vita di un bambino. Spesso nelle pianure ho visto le gazzelle giocare la stessa posta, quando ignara capitavo nei luoghi dove nascondevano il loro cerbiatto appena nato. Improvvisavano una specie di danza, mi arrivavano fin sotto il naso, saltellando, facendo capriole o fingendo di essere zoppe e di non riuscire a correre, tutto per non lasciarmi scoprire il piccolo. E all'improvviso, proprio sotto gli zoccoli del cavallo, lo scorgevo, il cerbiatto, immobile, la piccola testa allungata sull'erba, tutto appiattito per nascondersi dietro le sarabande della madre. Sono i trucchi che fanno anche gli uccelli per tenere al sicuro i loro piccoli. Sbatacchiano, svolazzano, recitando persino la parte dell'uccello ferito che trascina per terra l'ala spezzata. E ora anche Canino dava spettacolo per me. L'idea che la vita del figlio fosse in pericolo poteva ridare al vecchio Kikuyu tanto calore, fargli fare tutte quelle capriole? Gli cricchiavano le ossa, nella sarabanda mutava persino di sesso e ora pareva una vecchia, una chioccia, una leonessa, che tutta la messa in scena era tipicamente femminile. Uno spettacolo grottesco e insieme degno del più grande rispetto, come quando lo struzzo si sostituisce alla femmina e si mette a covare le sue uova. Nessuna donna avrebbe potuto restare insensibile a quella disperata manovra. Canino, gli dissi. Cabero può tornare alla fattoria quando vuole, non gli sarà torto un capello, ma appena arriva devi condurlo da me. Canino piombò in un lugubre silenzio, chinò il capo e se ne andò tutto sconsolato, quasi avesse perso l'ultimo amico che gli restava al mondo. Devo dire sin d'ora però che ebbe buona memoria e mi dette ascolto. 5 anni dopo, quando avevo quasi dimenticato tutta la faccenda, un giorno mi mandò a chiedere per Farà se potevo riceverlo. Lo trovai là, davanti la casa, appoggiato su una gamba sola, dignitosissimo, ma evidentemente molto a disagio, in cuor suo. Cabero è tornato, mi annunziò con garbo. In quell'epoca avevo già imparato l'arte della pausa e tacqui. Il vecchio capì tutto il significato del mio silenzio. Cambiò piede, le palpebre gli tremarono. Mio figlio Cabero è tornato alla fattoria, ripeté. È venuto dalla riserva Masai? Chiesi. Di colpo, per il solo fatto di essere riuscito a farmi parlare, Caninu dovette ritenere che la pace fosse ormai fatta. Non che ancora sorridesse, ma tutte le piccole rughe furbe della sua faccia si disposero al sorriso. Simsabu, è venuto dalla riserva Masai, rispose. È tornato a lavorare per te. Il governo in quegli anni aveva introdotto il Kipanda, cioè la registrazione obbligatoria di tutti gli indigeni del paese. Così, per fare di Cabero un legittimo abitante della fattoria, dovevamo chiamare un funzionario di polizia da Nairobi. Stabilimmo la data insieme a Canino. Padre e figlio quel giorno arrivarono molto prima dell'ufficiale di polizia. Canino mi presentò Cabero con grande giovialità, ma in cuor suo il figlio riconquistato lo spaventava un po', e non a torto, perché i Masai avevano accolto un agnellino e ora restituivano un giovane leopardo. Doveva esserci sangue Masai in Cabero. Non potevano essere state solo le usanze e la disciplina della vita Masai ad operare quella metamorfosi. Era là, davanti a me, un vero Masai, dalla testa ai piedi. Sono belli i guerrieri Masai. Hanno quella particolare forma di intelligenza che noi chiamiamo chic. La loro aria è intrepida, selvaggia, fantasiosa, è lo specchio della loro stessa natura, di un loro immanente ideale. Lo stile non ha nulla che sia d'accatto, non segue un'idea estranea di perfezione, ma nasce dal di dentro. È espressione della loro razza e della loro storia, non meno delle armi e delle bardature che son parte di loro stessi come le corna ramate di un cervo. Cabero portava i capelli lunghi alla moda Masai, intrecciati e legati con un nastro in grosso codino. Intorno alla fronte aveva una striscia di cuoio. Teneva la testa al modo dei Masai, il collo teso in avanti, come se offrisse la sua faccia imbronciata e arrogante su un vassoio. Aveva anche quel portamento rigido, passivo e insolente del Moran, che lo rende un oggetto da contemplare come una statua, una cosa fatta per essere vista ma che non vede. I giovani Masai vivono di latte e di sangue, questa dieta forse a rendere la loro pelle così meravigliosamente morbida e setata. Il viso dagli zigomi alti e le mascelle forti e liscio, senza una ruga o un segno, tutto pieno. Gli occhi senza trasparenza. Occhi che non vedono, sono incastonati come due pietre nere in un mosaico. In tutto il loro aspetto hanno qualcosa del mosaico, i giovani Morani. Gonfiano i muscoli del collo in modo stranamente sinistro, come un cobra incollerito, un leopardo o un toro in combattimento. Una dimostrazione di virilità che equivale a una dichiarazione di guerra al mondo intero, eccettuate le donne. Il grande contrasto o l'armonia che fra i visi lisci e pieni, i colli potenti, le larghe spalle rotonde, la sorprendente snellezza della vita e delle anche, le cosce magre, il ginocchio sottile, le gambe lunghe, diritte, nervose, dà loro la fisionomia di creature addestrate da una dura disciplina alla rapacità, alla bramosia, alla cupidigia estrema. I Masai camminano rigidi, mettendo uno davanti all'altro i piedi magri, ma i movimenti del braccio, del polso e della mano sono morbidi. Quando un giovane Masai tira con l'arco, nel momento in cui lascia la corda, par di sentire i nervi del suo lungo polso cantare, insieme alla freccia nell'aria. Il funzionario di Nairobi era un giovanotto arrivato da poco dall'Inghilterra e pieno di zelo. Parlava benissimo Swahili. E io e Canino non capivamo una parola di quel che diceva. La vecchia storia della fucilata assorbì il suo interesse. Al suo incalzante interrogatorio, Canino diventò come di legno. Finalmente, il funzionario concluse che secondo lui Canino era stato trattato in modo mostruoso e che tutta la faccenda doveva essere portata dinanzi al tribunale di Nairobi. Così lei ci perde il resto dei suoi giorni e io dei miei, dissi. Col mio permesso, insisté. Doveva ricordarmi che questa era una considerazione fuori luogo quando si tratta di far valere la giustizia. Canino mi lanciò un'occhiata. Per un attimo credette di essere stato preso in trappola. Si finì per concludere che era una storia troppo vecchia per rispolverarla e ci contentammo di registrare regolarmente Kaberu fra gli abitanti della fattoria. Ma tutto questo accadde molto tempo dopo. Per 5 anni Kaberu fu come morto per la fattoria e seguì i Masai nei loro vagabondaggi. Quanto a Canino, ancora non aveva finito di penare. Prima della fine del processo entrarono in gioco forze che lo stritolarono, riducendolo polvere. Sono forze difficili a definire per me. Innanzitutto erano misteriose di per se stesse. Alcuni avvenimenti della mia vita personale, inoltre, mi facevano dimenticare Canino e la sua sorte. Le questioni della fattoria in quei giorni mi parevano lineamenti di un paesaggio lontano, come la montagna del Kilimangiaro, visibile solo a momenti dalla mia casa. Gli indigeni accoglievano con rassegnazione i miei periodi di isolamento, considerandomi quasi fisicamente staccata da loro, passata su un altro piano. Dopo ne parlavano come se veramente fossi vissuta altrove. Il grande albero è caduto, dicevano. Il mio bambino è morto mentre eri dai bianchi. Quando Wayangherry fu in condizione di lasciare l'ospedale, andai a prenderlo per riportarlo alla fattoria. Da allora lo vidi solo di tanto in tanto, a una ngoma o sulle pianure. Qualche giorno dopo il suo ritorno, il padre, Wainaina, e la nonna si presentarono a casa mia. Wainaina era un ometto obeso, cosa rara fra i Kikuyu, quasi sempre magri. Portava una barbetta sparuta e, altra sua caratteristica, non guardava mai la gente in faccia. Dava l'impressione di un troglodita mentale, solitario, musone. Insieme a lui c'era la madre, una Kikuyu vecchissima. Le indigene sogliono rasarsi la testa ed è curioso come ci si abitui presto a vedere in quei piccoli crani rotondi e puliti, simili a nocciole scure, il vero segno della femminilità, mentre i capelli lunghi appaiono antifemminili quanto una barba. La vecchia madre di Wainaina si era lasciata crescere le ciocche bianche sul cranio grinzoso e, come un uomo non rasato, dava un'impressione di dissolutezza e di impudicizia. appoggiata al bastone, lasciava urlare Wainaina, ma il suo silenzio mandava ugualmente scintille. Pareva carica di una vitalità senza grazia, di cui non aveva trasmesso nulla al figlio. I due erano in realtà Uraca e Lascaro, ma questo lo seppi solo dopo. Erano venuti fin là, col loro passo strascicato, per uno scopo pacifico. Wanyangerry, mi disse il padre, non poteva masticare il mais. Loro erano poveri, avevano poca farina e non possedevano vacche. Ero disposta a regalargli un po' di latte delle mie vacche finché non si giungeva a una definizione del processo. Non sapevano come mantenerlo in vita fino al momento in cui avrebbero ricevuto l'indennizzo. Farah si trovava a Nairobi per una sua causa con i somali. In sua assenza consentì a dare tutti i giorni a Wanyangerry una bottiglia di latte. Ordinai ai ragazzi, stranamente restii e a disagio, di consegnargliela ogni mattina. Passarono 2 o 3 settimane. Finalmente, una sera, venne a trovarmi Canino. Comparve improvvisamente nella stanza dove, finito di cenare, stavo leggendo accanto al caminetto. Gli indigeni di solito preferiscono discutere all'aperto, e la maniera in cui si chiuse la porta alle spalle mi preparò a ricevere delle comunicazioni sorprendenti. Ma la prima sorpresa fu che Canino restava muto. La sua lingua mielata e abile taceva, come se gliel'avessero strappata. Malgrado la sua presenza, nella stanza continuava a regnare il silenzio. Il grande vecchio Kikuyu pareva gravemente ammalato. Appoggiato al bastone, si sarebbe detto non avesse più corpo sotto il mantello. Gli occhi erano offuscati come quelli di un morto. Mentre continuava ad umettarsi con la lingua, le labbra arse. Quando alla fine parlò, fu solo per annunciare lentamente, con voce atterrita, che le cose andavano male. Aveva già pagato più di 10 pecore a Wainaina, aggiunse poco dopo in modo vago, quasi fosse una cosa da tenere segreta. E adesso Wainaina, proseguì, voleva anche una mucca e un vitello, e lui glieli avrebbe dati. Perché mai, chiesi, se ancora il chiama non aveva deciso nulla. Non rispose, non mi guardò. Era quella sera un viaggiatore o un pellegrino senza patria. Arrivato nella mia stanza, come ad una tappa, mi aveva detto quello che mi doveva dire e ora stava per mettersi in viaggio di nuovo. Forse era veramente malato, pensai. Il giorno dopo lo avrei portato all'ospedale, gli dissi dopo una pausa. Mi lanciò una breve occhiata dolente. Il vecchio che aveva sempre beffato tutti veniva ora a sua volta beffato amaramente. Ma prima di andarsene fece un gesto inaspettato. Si portò la mano al viso come per asciugarsi una lacrima. Era un fenomeno strano, come il fiore spuntato sul bastone del pellegrino, che Canino avesse lacrime da versare. E ancora più strano che non le mettesse a frutto. Qualcosa doveva essere successo alla fattoria in quel periodo in cui avevo pensato ad altro. Uscito Canino, mandai a chiamare Farah e lo interrogai. Farah a volte era restio a parlare delle cose indigene, quasi non fosse degno di lui né di me perder tempo a discuterne. Alla fine cedette e mi raccontò tutto, continuando a fissare dietro di me, fuori la finestra, le stelle. La causa dello sgomento di Canino era la madre di Wainaina, che era una strega e gli aveva fatto una malia. Ma Farah, esclamai, Canino è troppo vecchio e saggio per credere nelle malie. No, rispose Farah piano. No, Mem Sahib, quella vecchia Kikuyu può veramente fare di queste cose, credo. La vecchia aveva annunciato a Canino che le sue mucche sarebbero rimaste vive solo per accorgersi di quanto sarebbe stato meglio per loro se fossero state consegnate a Wainaina, sin dal principio. Ora, una dopo l'altra, le mucche stavano diventando cieche. E, sotto al giudizio di Dio, il cuore di Canino veniva lentamente stritolato, come l'ossa e la carne delle vittime schiacciate dagli antichi carnefici sotto massi sempre più grandi. Farah parlava della stregoneria Kikuyu in tono asciutto, con una certa inquietudine, come si può parlare di certe malattie delle vacche che non ci contagiano ma possono farci perdere le bestie. Quella sera rimasi alzata fino a tardi, pensando alla malia. A prima vista aveva un brutto ceffo, quasi si fosse levata da una vecchia tomba per venire a schiacciare il naso contro i vetri della mia finestra. Farah Sentii una iena ululare, chissà dove, laggiù, vicino al fiume. E mi vennero in mente i lupi mannari Kikuyu, vecchie donne che la notte prendevano sembianze di iene. Forse in quel momento la madre di Wainaina galoppava lungo il fiume, snodando i denti nell'aria notturna. Improvvisamente l'idea delle streghe mi era familiare, non la trovavo più assurda. Tante cose bollono in pentola dopo il tramonto in Africa. Quella vecchia è ignobile, mi dissi in Swahili. Con le sue arti acceca le mucche di canino e intanto alleva il nipote con il mio latte. Pensai, quell'incidente, con tutte le sue conseguenze, ha avvelenato il sangue della mia gente ed è colpa mia. Devo evocare forze fresche, altrimenti precipiteremo in un brutto sogno, un incubo. So cosa farò. Manderò a chiamare Kinanjui. Capitolo 5. Il capo Kikuyu. Il gran capo Kinanjui viveva a circa 15 chilometri a nord-est della fattoria, nella riserva Kikuyu vicina alla missione francese, e regnava su più di 100.000 anime. Vecchio furbo dai modi garbati, pieno di autentica nobiltà, non teneva il comando per diritto di nascita, ma perché glielo avevano dato gli inglesi quando i loro rapporti con il capo legittimo del distretto erano divenuti insostenibili. Kinanjui era mio amico da tempo e mi aveva aiutato validamente in molte occasioni. Qualche volta a cavallo mi ero spinta fino alla sua maniata sporca e piena di mosche come quella di qualsiasi altro Kikuyu, ma molto più grande perché, come capo, Kinanjui si era ampiamente concesso tutte le gioie del matrimonio. Il villaggio era pieno delle sue mogli di tutte le età, dalle vecchiacce per le ossa sdentate appoggiate alle grucce, alle snelle ragazze dagli occhi di gazzella e il viso come la luna, col filo di rame scintillante avvolto intorno alle braccia e alle lunghe gambe. I figli ronzavano dappertutto, a sciami, come le mosche. I giovanotti eretti, col capo tutto adorno, giravano per la zona combinando un sacco di guai. Ci fu un momento in cui Kinanjui aveva ben 55 figli morani. A volte il vecchio capo veniva alla fattoria, avviluppato in un vistoso manto di pelliccia, seguito da alcuni dignitari canuti e da qualcuno dei suoi figli guerrieri, per farmi una visita o per prendersi un po' di riposo dagli affari del governo. In quei casi si faceva portare sul prato una poltrona della veranda e passava il pomeriggio là, fumando i sigari che gli mandavo in omaggio con i consiglieri e la guardia del corpo che gli facevano corona coccolati sull'erba. Appena saputo del suo arrivo, i servi e gli squatters venivano a raccogliersi intorno a lui, intrattenendolo con i racconti di tutto quello che era successo alla fattoria. Sotto gli alberi alti, la compagnia sembrava un'assemblea politica. Kinanjui, in quelle riunioni, aveva un sistema tutto suo quando gli pareva che la discussione andasse troppo per le lunghe. Si appoggiava allo schienale della poltrona, chiudeva gli occhi ed emetteva un respiro profondo e lento, basso e regolare, come se russasse. Ma il sigaro fra le sue labbra continuava a bruciare. Era una specie di sonno pro forma, di sonno ufficiale, in cui probabilmente si era specializzato durante le sedute del Consiglio di Stato. A volte prendevo una sedia e andavo a fare due chiacchiere con lui. Allora allontanava tutti quanti, quasi per dimostrare che da quel momento il mondo sarebbe stato governato seriamente. Quando lo conobbi non era più l'uomo di un tempo, la vita l'aveva impoverito, ma quando parlava apertamente e senza veli, per le mie sole orecchie, dimostrava un'intelligenza piena di originalità, uno spirito ricco, intraprendente, fantasioso. Aveva meditato molto sulle cose del mondo, si era fatto le sue idee e da quelle non defletteva. Un episodio pochi anni prima aveva cementato la nostra amicizia. Un giorno era venuto a casa mia mentre stavo pranzando con un amico che viaggiava nel paese. Fino alla sua partenza non avevo tempo di occuparmi del capo Kikuyu. Kinanjui intanto si aspettava che gli offrissi almeno da bere dopo quella lunga camminata sotto il sole, ma le mie bottiglie erano quasi vuote. Il mio ospite ed io allora riempimmo una coppa con i resti di tutti i liquori forti che avevo. Più è potente, pensavo, e più Kinanjui avrà pazienza. Andai a offrirgliela io stessa. Kinanjui, con un sorrisino gentile, se ne bagnò appena le labbra. Subito, lanciandomi l'occhiata più profonda che io abbia mai ricevuto da un uomo, rovesciò indietro la testa e vuotò ad un colpo la coppa fino all'ultima goccia. Mezz'ora dopo, partito appena il mio amico, vidi arrivare i ragazzi di fattoria. Chinandjui è morto, dissero. Chinandjui è morto. Sentii tragedia e scandalo levarsi nello stesso istante davanti a me, come grandi fantasmi dalla tomba. Andai a vedere. Il vecchio giaceva in terra a lungo disteso nella penombra della cucina, il viso senza espressione, le labbra e le dita violacee, fredde come la morte. Era come aver ucciso un elefante. Per colpa tua, una creatura piena di maestà e di potenza, che ha camminato nel mondo e ha avuto i suoi pensieri su tutte le cose, non si muove più. Pareva caduto nella degradazione perché i Kikuyu gli avevano gettato addosso dell'acqua, togliendogli il suo mantello di scimmia. Era nudo, come un animale a cui hanno strappato il vello, il trofeo per amore del quale lo si è ucciso. Volevo mandare Farah a cercare un medico, ma non riuscimmo a mettere in moto la macchina. Quelli del seguito, dal canto loro, ci pregarono di aspettare prima di prendere una decisione. Passò un'ora, mentre col cuore pesante mi accingevo a tornare a parlamentare, arrivarono di nuovo i ragazzi. Kinanjui è andato a casa, annunciarono. All'improvviso pare si era alzato, riavvolto nel mantello e, muto, insieme al suo seguito, si era incamminato a piedi verso il villaggio distante 15 chilometri. Da quella volta, credo, Kinanjui pensò che per fargli piacere avevo corso un rischio, sfidando addirittura un pericolo perché è proibito dare bevande alcoliche agli indigeni. Tornò altre volte alla fattoria. Fumava un sigaro con noi, ma non fece più accenno ai liquori. Se avesse voluto, glieli avrei dati, ma sapevo che non me li avrebbe chiesti mai più. Mandai un messaggero al villaggio di Kinanjui con una lettera in cui spiegavo l'incidente della fucilata. Lo pregavo di venire alla fattoria per mettere a posto le cose. Secondo me, dicevo, dando a Wainaina la mucca e il vitello a cui aveva accennato Kaninu, la questione doveva essere chiusa per sempre. Attesi con ansia l'arrivo di Kinanjui. Aveva una qualità che tutti apprezzano negli amici, si poteva contare su di lui. Con quella mia lettera, il processo, momentaneamente insabbiato, si rimise in moto e si concluse in modo drammatico. Un pomeriggio, mentre tornavo a casa a cavallo, mi sfrecciò accanto una macchina lanciata a velocità pazzesca che imboccò la curva del viale tutta inclinata su un lato. Era un'automobile rosso fiamma carica di nichelature. La riconobbi, apparteneva al console americano di Nairobi. Mi chiesi cosa avesse di tanto urgente il console per correre in quel modo. Ma mentre scendevo da cavallo, nello spiazzo dietro la casa, Farah venne a dirmi che era arrivato il capo Kinanjui. La macchina era sua adesso. L'aveva comprata il giorno prima dal console americano e non voleva scendere finché non l'avessi visto a bordo. Lo trovai seduto, immobile come un idolo, avvolto in un gran mantello di scimmia azzurra. Aveva sulla testa uno di quegli zucchetti che i Kikuyu ricavano dall'interiore delle pecore. Era sempre una figura imponente, alto e con le spalle quadrate, asciutto, il viso fiero, lungo e ossuto, la fronte sfuggente come quella di un indiano americano. Il naso, largo e straordinariamente espressivo, pareva il centro di tutta la sua persona, come se il corpo non avesse altra funzione che di portare a spasso quel naso. Al pari della proboscide di un elefante, era arditamente inquisitore e insieme sensibile e prudente, teso all'offensiva e allo stesso tempo prudente. Come la testa di un elefante, la testa di Kinanjui sarebbe stata nobilissima se non avessi avuto un'aria tanto abile. Il vecchio capo Kikuyu accettò i miei complimenti per la macchina senza batter ciglio, muto, continuando a guardare davanti a sé per mostrarmi il suo profilo come quello di un ritratto inciso su una medaglia. Se mi spostavo, girava il viso in modo da apparirmi sempre dallo stesso punto di vista. Forse pensava veramente alla testa del re stampata sulle rupie. Gli faceva da autista uno dei figli e il motore bolliva forte. Finalmente, compiuto il rito, lo invitai a scendere. Si strinse attorno il grande mantello e scese, e quel solo movimento lo riportò indietro di 2000 anni nella giustizia Kikuyu. Davanti alla casa, dal lato esposto a ponente, c'era un sedile di pietra e una tavola fatta con la mola di un mulino. La mola aveva una storia tragica. Era la molla superiore del mulino dei due indiani assassinati. Dopo il delitto, il mulino era rimasto silenzioso e abbandonato per molto tempo. Nessuno aveva il coraggio di affittarlo. Avevo allora pensato di utilizzare la mola per farci un tavolo, come usano in Danimarca. Secondo gli indiani, la pietra veniva da Bombay, perché in Africa le pietre non sono abbastanza dure per la macina. La faccia superiore, incisa, aveva delle grandi macchie scure che non si riusciva a togliere. Erano le macchie del sangue degli indiani, dicevano i ragazzi di fattoria. La mola in un certo senso rappresentava il centro della mia terra. Mi sedevo sempre là dietro quando dovevo discutere con gli indigeni. Da quel sedile, una notte di Capodanno, io e Dennis Finch Hatton avevamo visto la luna nuova e i pianeti Venere e Giove vicinissimi l'uno all'altra nel cielo. Un'immagine così splendente da sembrare irreale. Mai più mi è capitato di vederla. Anche quella volta mi misi là, facendo sedere Kinangui al mio fianco a sinistra. Farah rimase in piedi alla mia destra, tenendo d'occhio i kikuyu radunati intorno alla casa. Ne arrivavano sempre di nuovi, via via che si spargeva la notizia della presenza di Kinangui. L'atteggiamento di Farah verso la gente del posto aveva qualcosa di pittoresco. Era antico almeno quanto l'acconciatura e il portamento dei guerrieri Masai, un prodotto di molti secoli. Scaturiva dalle stesse forze che avevano eretto grandi monumenti di pietra, ma i monumenti erano divenuti polvere da tempo. Giungendo a Mombasa per la prima volta, attraverso i vecchi grigiocchiari alberi di Baobab, non sembrano una vegetazione terrestre, ma fossili porosi, giganteschi ossi di seppia, si scorgono rovine color cenere di case, di minareti e di pozzi, rovine che si trovano lungo tutta la costa. A Takaunga, a Kalifi, a Lamu sono i resti delle città degli antichi arabi, trafficanti d'avorio e di schiavi. Le loro navi percorrevano tutte le vie marittime e fluviali dell'Africa. Lungo le strade azzurre giungevano fino al mercato centrale di Zanzibar, noto sin dai tempi in cui Aladino mandò al sultano 400 schiavi carichi di gioielli e la moglie del sultano banchettò col suo amante nero mentre il marito era a caccia. E pagò poi con la morte il suo tradimento. Probabilmente arricchitisi, quei grandi mercanti portarono a Mombasa e a Kalifi i loro harem e si stabilirono nelle ville di fronte alle lunghe onde bianche dell'oceano e agli alberi fioriti di rosso sgargiante, mentre le loro spedizioni battevano gli altipiani. Perché da quel paese aspro e selvatico, da quelle pianure arse e brucianti, da quelle distese inesplorate e senza acqua, da quella regione folta di spineti serpeggianti lungo i fiumi e di piccoli fiori selvaggi, dal profumo pungente sulla terra nera, veniva la loro ricchezza. Là, sopra il tetto dell'Africa, vagabondava massiccio, sapiente, maestoso, il portatore dell'avorio. Viveva immerso nei suoi pensieri e voleva essere lasciato solo. Ma le frecce avvelenate dei piccoli neri Wanderobos e le lunghe carabine ad avancarica intarsiate d'argento degli arabi lo inseguivano, lo colpivano. Chiuso in trappola veniva gettato in una fossa, tutto per le sue lunghe, lisce zanne di un bruno chiaro che qualcuno stava aspettando a Zanzibar. Là, infine, brevi tratti di foresta erano stati bruciati, ripuliti e piantati a mais e patate dolci da un popolo ritroso e amante della pace che non era tanto abile nella guerra né nelle invenzioni, ma voleva essere lasciato tranquillo e che, come l'avorio, era una merce preziosa. Uccelli da preda, grandi e piccoli, si radunano là intorno. Vennero gli arabi, freddi e sensuali, che disprezzavano la morte e quando non si occupavano di affari avevano la mente all'astronomia, all'algebra e ai loro harem. Insieme vennero i loro fratellastri illegittimi, i Somali, impetuosi, attaccabrighe, sobri e avari, maomettani ferventi per supplire all'origine oscura, ligi ai comandamenti del profeta più dei suoi figli legittimi. E vennero i Swahili, razza di schiavi e dal cuore di schiavi, crudeli, osceni, ladri, pieni di buonsenso e buffoni nati, inclini ad imbolsire presto con l'età. Giunti là, si incontrarono con gli uccelli rapaci della zona, i guerrieri degli altopiani. Vennero i Masai, silenziosi, alte ombre nere, sottili, con lance e scudi pesanti, pieni di sospetto per gli stranieri, le mani dipinte di rosso, a vendere i loro fratelli. I diversi uccelli si riunirono e discussero. Un tempo, mi raccontava Farah, quando non avevano ancora portato le loro donne, i somali potevano sposare solo le figlie dei Masai. Un'alleanza strana per molti aspetti, perché i somali sono gente religiosa, mentre i Masai non hanno nessuna religione e non si curano delle cose ultraterrene. I somali sono puliti e tengono molto alle abluzioni e all'igiene, mentre i Masai sono sporchi. I somali danno grande importanza alla verginità delle spose, mentre le ragazze Masai badano poco alla moralità. E il motivo era questo: i Masai, disse Farah, non erano mai stati schiavi. Non possono essere ridotti in schiavitù, come non possono venire imprigionati. Rinchiusi in prigione, muoiono prima di 3 mesi. La legge inglese quindi è costretta a punirli non con il carcere, ma con le ammende. Questa assoluta incapacità di sopravvivere sotto il giogo ha posto i Masai e solo i Masai, fra tutte le tribù indigene, nel rango dell'aristocrazia straniera. Tutti gli uccelli da preda vivevano seguendo con gli occhi ardenti i miti roditori di quella terra. I somali avevano una posizione particolare, incapaci di fare da soli, troppo eccitabili e inclini a sprecare tempo e sangue inutilmente. Per difendere la regola morale della loro tribù, sono però ottimi comandanti in seconda. I capitalisti arabi forse se ne stavano a Mombasa, affidando loro l'incarico di imprese rischiose e di trasporti difficili. Il loro rapporto con gli indigeni, così, doveva essere quello del cane da pastore con le pecore. Li sorvegliavano senza mai concedersi un attimo di riposo, mostrando i denti aguzzi. Sarebbero morti prima di arrivare alla costa? Sarebbero scappati? I somali hanno un vivo senso del denaro e del valore delle cose. In nome della loro missione, probabilmente erano capaci di rinunciare al cibo e al sonno e di tornare ridotti pelle e ossa. Quel senso l'hanno ancora nel sangue. Quando scoppiò la spagnola alla fattoria, Farah, contagiato anche lui, tremante di febbre, si ostinava a seguirmi dappertutto per portare le medicine agli squatters e costringerli a curarsi. Gli avevano detto che la paraffina faceva bene e l'aveva comprata. Poi si ammalò anche il fratellino Abdullah che viveva con noi. Farah era preoccupatissimo, ma considerava pur sempre la sua ansia un'inclinazione del cuore, una cosa frivola. Il lavoro della fattoria significava dovere, pane e stima, e il cane moribondo non lo mollava. Fra l'altro era stranamente addentro alla vita indigena, pur non frequentando che i più ricchi fra i Kikuyu. Le pecore, le vittime senza denti né artigli, senza potenza né protezione alcuna sulla terra, seguirono la loro sorte come la seguono oggi, con l'immenso dono della rassegnazione. Non morirono sotto il giogo come i Masai, né si scagliarono contro il destino come i somali quando si credono offesi, truffati o disprezzati. In terra straniera, in catene, erano amici di Dio. Anche verso i persecutori conservarono sempre una strana coscienza di sé. Sapevano che il guadagno e il prestigio dei tormentatori dipendeva da loro. Nella caccia e nel commercio erano loro i protagonisti, erano loro la merce. Sulla lunga pista di sangue e di lacrime, nel profondo dei cuori muti e bui, si erano fatti una loro filosofia pecorina e non avevano molta stima né dei pastori né dei cani. Tu non riposi mai. Né di giorno né di notte, dicevano. Corri con la lingua di fuori, non fai che ansimare. La notte vegli e il giorno hai gli occhi arsi e dolenti, e tutto questo per noi? È per noi che sei qui? Sei tu che esisti in funzione nostra, non noi in funzione tua. I Kikuyu della fattoria a volte pareva lo facessero apposta a provocare Farah, come certi agnelli che prendono la fuga proprio sotto gli occhi del cane da guardia, solo per obbligarlo ad alzarsi e a inseguirli. Farah e Kinanjui, il cane da pastore e il vecchio ariete, erano di fronte. Farah eretto, col turbante rosso e azzurro, il panciotto arabo ricamato, la tunica di seta, serio e dignitoso come più non si può essere al mondo. Kinanjui, semisdraiato sul sedile di pietra, coperto del solo mantello di scimmia, un vecchio indigeno, una zolla di terra degli altipiani. Dimostravano il massimo rispetto l'uno per l'altro, benché quando non parlavano direttamente, seguendo un loro cerimoniale segreto, fingessero di non vedersi. Non era difficile immaginarli nell'atto di trattare, un centinaio d'anni prima, una partita di schiavi, membri indesiderabili della tribù di cui Kinanjui si voleva liberare. Per tutto il tempo, Farah avrebbe segretamente accarezzato l'idea di impossessarsi del vecchio capo in persona. Un bel colpo per arricchire il gruppo. Kinanjui, dal canto suo, avrebbe letto i suoi pensieri uno per uno e durante tutto il colloquio sarebbe stato lui a sopportare il peso della situazione, come sopportava il peso del suo cuore dolente e carico di spavento, perché era lui la figura centrale. Era lui la merce.